quattro venti, che esistono anche i sentimenti. Perché oramai un giorno capirai che non puoi nasconderti quell'insicurezza dietro a un muro tu. Parlo a te, quella coscienza che fedele ti sarà, sarà la tua certezza, sarà sempre la forza, quella speranza che mai ti balzerà, ti lascerà toccare. Ascoltami, amico mio, donami tutto di te, perché in coscienza so che tu mi sai amare, perché tu sai che Dio è con te, senza una prova sai che c'è, quel batticuore grande che vive tra di là, donando la sua gravità. La paura che non ci fa fermare, perché udire le emozioni crederebbe in noi troppe complicazioni. Ma sebbene che dal cuore un giorno ti tornerai, non potrai far finta più di essere quello che in realtà sei tu. Ascoltami, amico mio, sono io che parlo a te, quella coscienza che fedele sarà la tua certezza, sarà sempre la forza, quella speranza che mai ti imbarazzerà, ti lascerà toccare. Ascoltami, amico mio, donami tutto di te, perché in coscienza so che tu mi sai amare, perché tu sai che Dio è con te, una prova sai che c'è, quel batticuore grande che libertà ti dà, donando la sua grazia.